la chimica può sicuramente essere un settore contendibile, non è un settore strategico, io ho preso anche qualche posizione, ad esempio nel caso di Parmalat parliamo di un settore strategico per l'effetto filiera. La chimica è un settore strategico perché dietro il Made in Italy, dietro a tutte le innovazioni del Made in Italy c'è un forte contenuto di chimica, ma ritengo che già oggi la presenza delle imprese multinazionali in Italia è molto forte ed è molto benefica per tutto il settore. Ecco, quindi è una presenza benefica, ma lei non immagina un settore della chimica da proteggersi con una legge anti-opaca? No, no, onestamente no. Tra l'altro non dimentichiamo che ci sono anche tanti italiani che si sono internazionalizzati in questi anni, quindi come sempre ci deve essere una reciprocità, cioè io penso che la chimica italiana debba essere libera, dovrebbe essere più attrattiva verso gli investimenti esteri e nello stesso tempo dovrebbe la chimica italiana, di capitali italiani, dovrebbe avere la possibilità di essere più globale nel mercato internazionale. Ecco, mi faccia capire una cosa, ma quindi mancano i soldi e gli investimenti degli stranieri nella chimica in questo caso o c'è il rischio colonizzazione? Quale delle due? No, lei ne vorrebbe di più di soldi? Questo rischio non c'è, il problema è la chimica, più di essendo un'attività manifatturiera abbastanza complessa, è quella che soffre forse di più tra le attività manifatturiere dei vincoli del sistema paese, in modo particolare della complicazione normativa burocratica del paese, per cui ampliare un impianto chimico o costruire un impianto chimico ex novo è, nel nostro paese è un'impresa titanica e può richiedere anni e in qualche caso anche decenni. Ecco, e lì su questo nodo della complicazione burocratica del paese che si deve lavorare. So che il ministro Tremonti sta lavorando a un progetto di semplificazione normativa burocratica, ecco, penso che questa sia la direzione in cui noi dobbiamo andare.